Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buongiorno, benvenuti, Luca Tremolada al microfono, bentornati a Nova 24, Nova Lab 24, insomma 2010, riparte tranquillamente il nuovo anno e proprio perché riparte il nuovo anno, insomma l'idea è quella di dedicare ben due puntate a internet. In che chiave internet? Vediamo un po' di capire come e perché internet è sotto attacco. Io sono qui con il nostro autore ed esperto di internet e dei social networking. Buongiorno Luca Dello Jacopo. Buongiorno. Che non ha trovato ancora la cuffia, ma adesso riusciremo a trovare una cuffia per metterlo in comunicazione. E insomma ci sono due chiavi, insomma, che vogliamo sviluppare, perché dedicheremo appunto due puntate al tema. Il primo è che l'abbiamo visto nella copertina dell'Espresso, che è andata in onda, insomma, che è stata pubblicata un paio di settimane fa. Giù le mani da internet sotto attacco, un problema molto italiano. Oggi, insomma, è di oggi le notizie di una sentenza che permette all'autorità di oscurare, una sentenza della Cassazione che permette alle autorità di oscurare siti web anche solo se sospettati di reato. Per cui che cosa succede? Anche in una situazione di questo tipo si entra in una logica particolarmente stringente. E poi abbiamo scoperto che il 30 dicembre il decreto Pisano, che emette regole molto, diciamo, stringenti, è stato rinnovato. Per cui insomma c'è un insieme di regole che in un certo qual senso mettono un po' alla berlina la rete in Italia. Assolutamente sì, e a partire poi anche da altri casi che abbiamo visto e che sono successi di recente. Ricordiamo che tra qualche giorno i responsabili di Google saranno chiamati a discutere delle accuse mosse verso un video che è stato pubblicato su YouTube e che mostrava delle violenze nei confronti di un ragazzo down. E ricordiamo anche che è proprio dall'Italia e dal nord Italia che è partita poi una sono partite, diciamo, le prime inchieste su Pirate Bay e quindi sulla condivisione. Infatti, la questione della Cassazione parte anche un po' da lì, dalla questione di Pirate Bay. Sembra che in Italia ci sia, tra l'altro abbiamo visto anche le dichiarazioni da parte degli esponenti del governo. Facebook ha messo la berlina perché è il luogo ritenuto più pericoloso delle Brigate Rosse, è stato detto, e sono state dette moltissime cose contro la rete. A un certo punto di vista l'impressione è stata anche un po' quella di mettere un po' sotto accusa il telefono, cioè alla fine della fiera internet è una piattaforma di comunicazione. Sì, è una piattaforma di comunicazione ed è appunto un po' come dicevi giustamente tu, criticare un mezzo, uno strumento, anche nel caso di YouTube, è come criticare la televisione per quello che trasmette. O nel caso appunto di un social network è come un po' prendersela, diciamo, con un muro dove si scrivono, ecco, delle cose con la bomboletta, sì, forse spray. Il punto è che le scrivono un po' tutti queste cose, o forse il punto è che, a differenza non tanto del telefono, in questo caso della televisione, insomma la mano può essere di qualsiasi persona che ha un collegamento a internet, che ha quindi un abbonamento e che può quindi scrivere da qualche parte. Ecco, questo diciamo che è il tema di diversità e di democrazia, anche perché in questo momento, ed è anche un altro dato diverso, quello che sta accadendo è che per esempio un fenomeno come la repressione in Iran viene raccontato praticamente dai social network. Sì, è l'unico modo in cui riusciamo a vedere e sapere qualcosa dell'Iran, tanto più che poi queste informazioni si diffondono rapidamente e quindi c'è anche maggiore partecipazione al resto del mondo. Anche noi dall'Italia, se vogliamo seguire qualcosa, le notizie, ecco, che riguardano l'Iran, possiamo anche vedere su Twitter questo microblog, che permette di avere delle notizie in tempo reale e anche di leggere i commenti e le opinioni. ecco, serve per avere il polso in un certo senso di che cosa pensa la rete di quello che sta succedendo. Ecco, facciamo sentire una scheda. Noi abbiamo provato, anzi tu hai provato a riassumere tutto quello che è successo negli ultimi tempi. Cioè, abbiamo fatto un racconto su internet e democrazia partendo proprio dal caso iraniano. Sentiamolo. Dalla fine di dicembre gli studenti manifestano il loro dissenso nelle strade di Teheran. Sei mesi fa Mahmoud Ahmadinejad ha vinto le elezioni presidenziali, ma i sospetti di brogli alle urne non sono stati cancellati. Internet però ha acceso i riflettori del mondo sull'Iran. Twitter e Facebook hanno diffuso le notizie sulle proteste in strada. YouTube è diventato una telecamera sui cortei dei manifestanti. Ma blog e social network facilitano davvero la partecipazione dei cittadini? Alcuni sollevano dubbi. In estate i messaggi su Twitter arrivati dall'Iran sono stati soltanto lo 0,27%. Le altre informazioni sono state pubblicate da blogger all'estero. Nello stesso periodo, su Twitter, le opinioni contrarie alla protesta degli studenti sono aumentate di 200 volte. Le autorità di Teheran non hanno perso tempo a tenere sotto controllo anche Facebook. Per conoscere i contatti degli attivisti, infatti, può bastare uno sguardo ai loro amici sul social network. Inoltre, negli ultimi mesi, funzionari della dogana in Iran hanno chiesto a passeggeri appena sbarcati dagli Stati Uniti se avessero una pagina su Facebook. Anche in Cina, internet è un pianeta in fermento. Durante le Olimpiadi di Pechino, 280.000 volontari hanno monitorato le discussioni nei forum. E in occasione delle proteste in Tibet, una fiammata di nazionalismo ha percorso il web. Un sito cinese chiamato Anti-CNN ha pubblicato su YouTube filmati critici verso i giornalisti stranieri. In poche settimane, milioni di cinesi hanno visto i filmati e hanno pubblicato commenti critici verso l'estero. Quindi solo lo 0,27%. Sì, una percentuale bassissima rispetto a quella che ci si poteva aspettare. Perché in un primo momento, alquantomeno, le insurrezioni in Iran sono state lette nella seguente maniera. Attraverso Twitter tutti gli oppositori del regime riescono ad avere voce. Poi che cosa è successo? Si è scoperto... Si è andati ad indagare e grazie a una ricerca della Open Net Initiative, che è un'organizzazione non profit che si occupa di monitorare l'accesso a internet nel mondo e quindi anche di stilare le classifiche per le nazioni e per l'apertura al web, l'Open Net Initiative è andata a rilevare che appunto soltanto lo 0,027% delle persone in Iran ha avuto accesso a Twitter, e questo quindi è da interpretare, perché poi ecco i risultati non sono molto semplici da comprendere. C'è un blogger, Yevgeny Morozov, che è un analista di foreign policy ed è stato anche un attivista nei paesi dell'est europeo, che appunto ha ragionato sull'apertura di Twitter e sulle possibilità di Twitter. Quello che dice lui è semplice. Dice: noi adesso non sappiamo quali sono le conseguenze di Twitter all'interno degli stati, anche perché non abbiamo dei dati precisi su quello che sta avvenendo. Quello che sappiamo però è che ha avuto certamente un'influenza sull'opinione pubblica mondiale, sull'attenzione dell'opinione pubblica. Se noi oggi parliamo dell'Iran è anche perché c'è stata l'attenzione su Twitter, è anche perché c'è stato un passaparola che ha portato questa, le proteste di giovani studenti in piazza, le ha portate all'attenzione di tutti. Ecco, due punti su questo tema. Uno, il rischio manipolazione, perché un tema centrale di tutta la discussione, di tutte le polemiche, di quanto viene scritto a favore o contro la rete è legato a un concetto di trasparenza. Cioè, chi c'è dietro ai blogger? Chi c'è dietro ai Twitter? C'è una modalità, c'è un modo per cui io posso scoprire chi dice cosa? Anche perché nel caso di Twitter diventa centrale. Cioè, un conto è sapere che una persona sta protestando e sta inviando delle foto dagli Stati Uniti, un altro conto si rimanda dall'Iran. Guarda, è una questione che in effetti stanno affrontando tutti in questo momento, soprattutto per quanto riguarda le nazioni dove non è possibile l'accesso ai giornalisti. E lo stanno affrontando perché è difficile riuscire a controllare le fonti. al tempo stesso però c'è bisogno di avere delle informazioni, quindi ogni volta bisogna fare una scelta, ed è una questione che stanno affrontando anche tutti quei blogger che seguono con passione le vicende in Iran, anche perché i giovani iraniani si trovano a loro volta a dover fare una scelta, perché sanno benissimo nel momento in cui scrivono su un blog o su un social network che quello che scrivono potrebbe avere delle conseguenze. Nonostante questo lo fanno, e lo fanno anche perché l'Iran ha una blogosfera molto ampia. Che cos'è la blogosfera? Appunto è l'insieme dei blog che sono stati aperti in Iran, dove si discute. Tra l'altro la blogosfera iraniana è molto particolare perché è dedicata alla poesia. La maggior parte dei blog in Iran, secondo uno studio del Berkman Center, sono dedicati alla poesia perché c'è un'antica tradizione nazionale di attenzione, diciamo, alla poesia, che è sopravvissuta fino ad oggi. Quindi gli aspetti legati all'attualità non sono una parte maggioritaria della discussione su internet. Nonostante questo, però, molti giovani, ricordiamo che l'età media in Iran dei giovani delle persone è di 27 anni ed è un'età media bassissima. Ecco, i giovani hanno però appunto un mezzo di espressione pubblica che è quello della rete. No, tra l'altro noi abbiamo in collegamento Arturo di Corinto. Buongiorno. Buongiorno a voi, anzi forse buonasera. Buonasera, diciamoci buonasera. Allora, esperto di social media, esperto di open source, insegna all'Università Sapienza comunicazione mediale dal computer, è giusto? In questo momento mi dedico soltanto alla ricerca presso il CATID, che è il Centro per le Applicazioni della Televisione dell'Università di Roma La Sapienza, su cui convergono 8 facoltà, e dirigo un laboratorio sul software libero e open source. Ecco, noi stavamo discutendo dell'influenza e dell'impatto che possono aver avuto Twitter e i social network in Iran. Secondo lei che ruolo hanno avuto davvero? Cioè, dobbiamo credere al fatto che davvero internet può avere un ruolo decisivo per lo sviluppo della libertà di espressione, oppure bisogna essere un po' più cauti? Sicuramente internet nasce come strumento di comunicazione aperta e così viene utilizzato dai suoi primi utenti, da quelli attuali. È stato detto che è la più grande agorà pubblica che la umanità abbia mai conosciuto, tuttavia se pensiamo a quello che è accaduto in Iran, ma anche in Birmania e in altri paesi autoritari dove leggi illiberali impediscono il libero utilizzo della rete come strumento per la manifestazione del pensiero, dobbiamo dire che internet ha avuto un ruolo rilevante soprattutto per il mondo occidentale, ma non tanto per l'Iran stesso. Se consideriamo la quantità di informazione che sulle proteste dell'opposizione verde, del movimento verde, sono state diffuse attraverso internet, dobbiamo considerare che soltanto il 37% di questa informazione originava dall'Iran, il resto era informazione che veniva ritwittata oppure che veniva mimata da media, da altri media occidentali, da agenzie giornalistiche, da altri gatekeeper. Ecco, quindi se qualcosa è cambiato è per il passaparola, in effetti, cioè per l'ampiezza che ha avuto la diffusione dei messaggi su Twitter. Beh, sicuramente sì, perché Twitter è un tipo di piattaforma di microblogging, appunto, che si presta particolarmente bene a delle comunicazioni veloci, sintetiche, telegrafiche e a creare quegli scambi, quei rimandi tra link che permettono di approfondire le notizie, ma soprattutto una piattaforma che in altri paesi, non è il caso, non succede in tutti i paesi, in altri paesi può essere aggiornata attraverso un semplice apparato telefonico, quindi in mobilità con una tecnologia ormai relativamente semplice da usare, facilmente accessibile nei negozi di qualsiasi parte del mondo. Quindi Twitter ha avuto sicuramente un ruolo e ha creato una moda, quella che è stata chiamata la greenification, cioè il diventare verde di Twitter per un lungo periodo. Dopodiché... Ecco, ci sono anche altre nazioni che in effetti stanno sperimentando la possibilità attraverso i social media di raccontare di più quello che succede all'interno e in un certo senso quindi di cambiare anche gli eventi. Io penso di sì, è la storia un po' di tutti i paesi dove cosiddetti in via di sviluppo delle economie emergenti, però in particolare mi viene da pensare all'Egitto, alla Tunisia, a Cuba e alla Cina. Non è un caso che in Egitto la repressione nei confronti della libera manifestazione del pensiero sia particolarmente forte, non è un caso che in Tunisia vengano filtrati sempre di più i siti occidentali che fanno un discorso sulla Tunisia, sul governo Ben Ali, eccetera. E in Cina, nonostante la grande muraglia cinese eretta dalle autorità governative, c'è un leaking, c'è uno sgocciolare di informazioni, di notizie che vengono dal basso. Questo viene fatto grazie a dei normali cittadini che con un po' di competenze tecniche riescono a girare i muri, i filtri tecnologici che il governo pone a difesa della sua stabilità nazionale. Di Corinto, noi abbiamo deciso di dedicare due puntate a questo tema, partendo da quella che è un po' l'anomalia italiana, cioè di fatto i toni che si usano in Italia verso la rete sono straordinariamente diversi da quelli che si utilizzano in altri luoghi del mondo. Infatti, volevo chiedere... Non sempre è così. Ecco, che impressione ti sei fatto tu? Cioè... L'impressione che mi sono fatto io è che chiaramente mentre nessuno può mettere in discussione lo statuto democratico della nostra società, del paese, è anche vero che troppo spesso si sentono dei toni troppo accesi e una eccessiva volontà di normare la rete, soprattutto da parte dei decisori pubblici. E in questo, ripeto, non siamo troppo diversi da altri paesi come il Kuwait o l'Afghanistan. Ah no, noi ci fermiamo. No, questo purtroppo sì, è vero, cioè rispetto ad altri paesi abbiamo quantomeno toni simili. O anche delle generalizzazioni, mi viene da dire, cioè il fatto di considerare i social network come un qualche cosa animato da un unico spirito, cioè i social network, chi ascolta questa trasmissione insomma ha imparato a conoscerci, anche sono voce di tante voci. Da un certo punto di vista è difficile, prima parlavamo con Luca Dello Jacopo, è come mettere le briglie alla televisione o al telefono, è come mettere le mani contro su una piattaforma di comunicazione, è anche complicato da un punto di vista tecnico, tra l'altro. Beh, assolutamente vero, in genere dietro questa obiezione si sono appostati quelli che difendevano la neutralità della rete come strumento per creare, per fare pubblica opinione. Ecco, puoi spiegare che cos'è la neutralità della rete? Che ci voleva arrivare nella seconda parte, però introduciamo già adesso il concetto. No, qua dicevo neutralità nel senso che è immaginata come un'infrastruttura, come un tubo dentro cui può correre di tutto, cioè non c'è nessuno che può discriminare l'accesso, può differenziare i bytes che corrono sulla rete, cioè nessuno sa in anticipo di cosa sono, che cosa portano questi bytes, e quindi non si può decidere cosa far passare e cosa tenere fuori. Quindi la neutralità, che è un principio fondante della rete, in pratica identifica un concetto per cui attraverso la rete internet c'è accesso uguale per tutti a qualsiasi tipo di contenuto e quindi a qualsiasi sito, a qualsiasi fonte di informazione. Quindi insomma i byte non hanno faccia, non hanno colore. Esatto, non sono né di destra né di sinistra, non sono né col copyright né senza il copyright e così via, anche perché differenziare questi byte implica una analisi di che cosa sono fatti questi byte, significa come... Diciamo che la rete, la metafora dell'autostrada è stata più volte usata, non è un caso, perché il papà di Al Gore, che ha elaborato questo concetto delle autostrade dell'informazione, lavorava nelle autostrade. Allora, se usiamo questa metafora, l'autostrada dell'informazione, dobbiamo immaginare che le autostrade dell'informazione sono fatte da autostrade a otto corsie, ma sono fatte anche da autostrade a una singola corsia che somiglia di più alla Salerno-Reggio Calabria che a un'autostrada californiana. Allora, se viene meno il principio di neutralità della rete, c'è un casellante che, ispezionando il motore della nostra macchina, può decidere se noi possiamo andare su un'autostrada super veloce oppure sulla stradina di campagna. Questo è il problema vero della neutralità della rete, che c'è qualcuno che attraverso metodi ispettivi decide se tu sei legittimato a correre di più o di meno, a arrivare in un posto anziché in un altro. Ecco, però non è soltanto un'ipotesi, visto che per esempio anche l'Australia ha recentemente pensato di introdurre o di iniziare a riflettere su una legislazione molto restrittiva per quanto riguarda la libertà di accesso alla rete. E di recente hanno, diciamo, rimandato la discussione e l'approvazione poi di una legge al 2011, alle prossime elezioni, però di fatto sembra che sia abbastanza consolidata, ecco, la volontà di andare a controllare come si fa in Cina, in effetti, quello che poi passa all'interno della rete, e quindi di andare a vedere in un certo senso quali automobili passano e decidere poi quali possono passare e quali no. Purtroppo queste pulsioni ci sono anche in Europa, perché con il telecom package discusso fino al novembre scorso, in realtà la Commissione europea stava cominciando a lavorare a un processo di riforma di tutto il quadro regolatorio delle telecomunicazioni che prevedesse la possibilità per i grandi carrier di telecomunicazioni di differenziare il traffico sulle loro reti e di farlo pagare in relazione alla qualità del suo instradamento. Cioè, che cosa significa? Che c'è un'idea per cui, siccome si ritiene che le autostrade dell'informazione, la rete internet, sia intasata dagli exabyte di dati costituiti dai milioni di video di YouTube, dalle chiacchiere su Facebook e affini, siccome c'è un intasamento che produce perdite di informazione, rallentamenti nelle comunicazioni e colli di bottiglia verso l'utente finale, il problema vada risolto non con un ammodernamento infrastrutturale, con l'innovazione infrastrutturale e reti di nuova generazione, ma differenziando il traffico e creando delle corsie preferenziali e delle strade normali, che significa creare utenti di serie A e utenti di serie B. Questa cosa qui sta dentro il telecom package, che è una cosa europea. Che però è una tentazione, da quando è nata internet si parla di internet 2, cioè di un internet per il business, per le imprese, ripulito, super veloce, un internet aperto a tutti. Esatto, purtroppo è così, anche se l'Internet 2 in questo caso è il progetto di un consorzio di centri universitari di ricerca che è attivo da circa 10 anni e che sta sperimentando una rete ultraveloce che si chiama appunto Internet 2. In realtà c'è anche la National Science Foundation, che è l'equivalente del nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche, che sta finanziando molti progetti per reti internet di nuova generazione, perché il problema è vero, esiste, però qua ci sono due correnti di pensiero. Una corrente di pensiero dice: l'internet che c'è così com'è funziona, nonostante sia sovraccarica, non è mai collassata per davvero, a parte qualche piccolo incidente, e allora quello che dobbiamo fare per evitare problemi nel futuro è ammodernare la rete, a cominciare non solo dai grandi backbone che mettono in comunicazione i continenti, ma anche lavorando sull'ultimo miglio, cioè lavorando sul doppino di rame, per intenderci. Poi bisogna lavorare sulla qualità del software e dell'hardware che si usa, perché troppo spesso il software e l'hardware che noi usiamo per instradare i nostri messaggi, a partire dai piccoli router che abbiamo dentro casa, i famosi AG, fino ai router intermedi tra noi e gli operatori, tra gli operatori e coloro a cui chiediamo le informazioni su un sito web, questi router, questi apparecchi informatici, quest'hardware che molto spesso è una scatola nera di cui non sappiamo il funzionamento, non sappiamo neppure la produzione, ecco, questi computer intermedi che consentono al traffico di girare funzionano male, perché sono fatti male, perché sono fatti a risparmio, molto spesso in paesi dove non c'è nessuna attenzione per quegli elementi di sicurezza che invece da noi sono molto importanti. Di Corinto, proviamo a fermarci un secondo, che dobbiamo dare la linea alla borsa, poi ripartiamo dalla Cina e continuiamo questo ragionamento. Linea alla borsa. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolare al microfono, Luca Dello Jacopo. Stiamo un po' cercando di capire un po' l'anomalia italiana sul bavaglio alla rete, un po' quello che succede negli altri paesi, e lo chiediamo anche, insomma, cerchiamo anche di una conduzione partecipata, chiedendo anche agli ascoltatori di raccontarci un po' se loro vedono in Facebook, nei social network, nelle reti sociali, in questi strumenti un pericolo pericolo per la democrazia, un pericolo per il paese, oppure come vediamo noi, e qui metto già le mani avanti, è una opportunità in quanto l'economia ha bisogno di una rete. Anche perché da quanto detto finora abbiamo visto che in effetti siamo un paese un po' meno anomalo di quanto ci aspettavamo. Sì, beh, si è paragonati però ad altri paesi che francamente... A 824 0024 per intervenire in onda, ricordo che noi dedichiamo due puntate a questo tema. 349-238-6666 gli sms. Noi siamo chiaramente siamo tra l'altro in collegamento con Arturo di Corinto, che è ancora con noi, vero? Buongiorno. Sì, salve. Allora, adesso noi sentiamo insieme una scheda redatta da Luca De Loiacu su quanto sta succedendo in Cina sul fronte della censura. Tra l'altro di questa scheda poi approfondiamo due o tre punti. La censura in Cina è diventata selettiva. Siti internet e motori di ricerca sono accessibili, ma le singole pagine web vengono oscurate. A farne le spese sono le grandi piazze online come Wikipedia, YouTube, Google e Yahoo. A Pechino cercare la parola Tiananmen significa trovare informazioni sulla piazza principale della capitale cinese. Ma non è disponibile nessun accenno alle manifestazioni degli studenti cinesi nel 1989. I motori di ricerca, infatti, filtrano le pagine web seguendo una lista di parole chiave proibite. Anche i video di YouTube sono sotto controllo e i filmati vietati diventano inaccessibili dalla Cina. Inoltre, le voci non gradite dell'enciclopedia Wikipedia vengono cancellate o modificate. Anche le chat sono monitorate. Le conversazioni con parole a rischio vengono interrotte. Il filtro della censura dipende però dalle regioni. Hong Kong e Macao, per esempio, sono territori a statuto speciale e le forbici di Pechino sono meno severe. Forbici di Pechino meno severe, quindi. Ma il tema è tecnologico o è invece politico? E lo chiedo ad Arturo di Corinto. Il tema è tecnologico e culturale, quindi politico, nel senso che innanzitutto la scheda di Luca De Loiacu era molto chiara, sintetica ed efficace. Io distinguerei fra diversi tipi di pericoli per la rete di oggi e per la rete del futuro. Si tratta di pericoli di carattere tecnologico e pericoli di carattere culturale. I pericoli di carattere tecnologico attengono a una debolezza infrastrutturale di base della rete internet. La rete internet è stata pensata per connettere poche centinaia di computer fra di loro che erano gestiti da persone note e che soprattutto erano fissi. È tutto il contrario di quello che succede oggi, cioè i computer oggi sono milioni, miliardi probabilmente quelli collegati alla rete e si parlano in condizioni di mobilità. Quindi c'è un sovraccarico funzionale della stessa infrastruttura della rete che dipende dal fatto che la rete, così come è stata pensata, funziona sulla base di dispositivi pensati 40 anni fa. Eccolo, questo possiamo sottolinearlo un secondo, perché ci è stato sempre raccontato che internet è nata come rete militare. No, questa è una leggenda metropolitana. Ecco. È una leggenda metropolitana perché internet è stata finanziata dagli inizi dal Dipartimento per la Difesa degli Stati Uniti d'America. Tuttavia non fu un progetto militare dall'inizio, c'era qualcun altro che ci stava pensando, ma quella che si evolse come la internet che conosciamo oggi non era un progetto di ricerca militare, anzi era un progetto di comunicazione per allocare meglio le risorse scientifiche esistenti tra i centri di ricerca pubblici e privati degli Stati Uniti, perché il presidente Eisenhower era spaventato, come tutti gli americani, dal lancio in orbita dello Sputnik russo nel 1957 e temeva di perdere l'egemonia politica, economica e militare del paese e sul mondo. Quindi allora, egemonia culturale sostanzialmente, egemonia di che conoscenza. Nasce nelle università, in effetti quindi il mondo di internet come immaginavamo, però nasce nelle università e l'influenza poi, l'importanza, il peso del mondo, ecco, della difesa, del DARPA è un po' più limitato di quanto si immagini. Sì, ma addirittura si era parlato di, nel caso di scoppio, cioè la leggenda metropolitana parlava proprio nel caso di attacco nucleare. In realtà, anzi, la critica che è stata mossa da un certo punto di vista era che internet era nato come un divertissement tra centri di ricerca. No, in realtà è che quella che noi chiamiamo Internet oggi nasce dal primo progetto della DARPA americana, cioè del Dipartimento della Difesa, però c'erano altri progetti paralleli in corso per realizzare reti di computer. Uno di questi era della RAND Corporation, cioè un complesso, un think tank industriale e militare americano, il cui ingegnere di punta, Paul Baran, pensava a una rete che fosse in grado di resistere a un attacco di carattere militare. Non è quel progetto che si è evoluto nell'attuale Internet, un altro progetto che è stato invece partorito e portato avanti da degli psicologi, cioè i primi capi progetto della Internet che conosciamo oggi erano due psicologi seguaci delle teorie del Nobel per l'informazione, Claude Shannon. Quindi in realtà l'idea che c'era dietro, e là c'è la lungimiranza di Dwight David Eisenhower e di tutto il suo entourage nel 1957, che era importante per competere meglio con i russi, studiare di più, fare più ricerca, mettere in comunicazione i ricercatori, allocare meglio le risorse, far trovare prima i risultati delle ricerche scientifiche a chi se ne occupava. Quindi è una leggenda metropolitana che la rete Internet era un dispositivo di comando e controllo dell'esercito americano. Quindi si era già nell'economia della conoscenza anche allora, si iniziava a immaginare che è la conoscenza poi il fattore competitivo fondamentale per, diciamo, conservare o per migliorare poi la prosperità della nazione. Esatto, e a questa visione diedero un contributo fondamentale ricercatori, accademici, imprenditori a vario titolo, ma soprattutto gli hacker dell'MIT di Boston, cioè che cominciarono a usare le macchine per permettere alle persone di comunicare fra di loro, non di scambiarsi semplicemente dei dati. Se voi ci pensate, la parola computer viene dal latino computo sicuramente, però era usata per indicare le donne che sulle navi da guerra americane facevano i calcoli della traiettoria balistica dei proiettili dei cannoni da guerra. I computer servivano a fare calcoli militari, ma la rete che doveva collegare questi computer non fu pensata per degli scopi militari, proprio esattamente il contrario accadde, fu pensato come un dispositivo di comunicazione. E gli hacker, che pensavano che tutta l'informazione doveva essere libera, capirono subito che i computer collegati in rete potevano essere uno strumento straordinario per insegnare alle persone quello che c'era di importante da sapere sul mondo, e cominciarono a lavorarci sopra. Ecco Arturo, ti fermo un secondo perché abbiamo una telefonata di Massimo da Bologna. Buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Ma no, voi a un certo punto avete fatto un commento sulla diciamo così, sulla utilità dei social network come spazio di informazione, riflessione, eccetera. E io volevo portare una piccola testimonianza. Io mi occupo di relazioni istituzionali per un gruppo industriale piuttosto grande, e diciamo, a volte nella nostra quotidianità i social network, che pure è così, sono spazi di riflessione, di informazione, di aggregazione delle idee, sono però anche uno spazio che molte volte, diciamo così, inquina, permettetemi, diciamo così, il termine, inquina il processo decisionale, e non sempre in modo positivo. Ecco, in che cioè, senso? Ci può fare un esempio? Ma ad esempio, magari uno porta avanti una procedura in modo assolutamente regolare, facendo una procedura, che ne so io, per degli impianti di natura energetica, in modo assolutamente regolare, facendo tutti i passi che previsti dalla normativa per la valutazione di impatto ambientale, per tutti questi aspetti, diciamo così, e poi però magari alla fine, a processo concluso, ad autorizzazioni praticamente giunte, esce il comitato locale che si aggrega su internet, che magari si lega ad esempio a social network di natura più ambientalista, e magari solleva problematiche o tematiche che nei momenti giusti, nelle sedi giuste, non sono stati sollevati. Quindi c'è un po' di caos, se capiamo bene, c'è un po' di caos nelle proposte, cioè non c'è un ordine nelle proposte che poi vengono fatte nel processo decisionale, cioè non c'è un coordinamento, diciamo, e non è un valore aggiunto quindi in questo caso il social network. Il network in sé non ne ha la colpa, ne ha più forse la colpa, diciamo, il processo decisionale politico, che non trovando più nelle sedi istituzionali e politiche tradizionali i propri riferimenti, magari corre dietro ad ogni foglia che si muove, ma quando le foglie che si muovono sono tante, contemporanee e che vanno in direzioni diverse, come spesso accade sui social network, questo poi crea, diciamo così, una sorta di una pazzia, diciamo, del sistema della decisione politica. Non so se mi spiego. Non è una critica. No, ma non è la critica. Cioè, sostanzialmente lei dice: attenzione, però, che nel momento in cui si utilizzano i social network, si possono, criticando determinate iniziative o sollevando delle ipotesi, insomma, delle critiche, degli allarmi, questo può, da un certo punto di vista, frenare il processo di approvazione di un determinata decisione, no? No, ma questo non può, questo accade. Sì, però sono anche un po' le regole della democrazia, cioè, è stato detto che la democrazia sicuramente è un sistema complesso e costoso da un certo punto di vista, ma è anche il suo bello. No, sì, d'accordo, però la democrazia deve avere delle regole, e se le regole sono regole di contenuti e di procedure che poi vengono rispettate, non può essere o non dovrebbe essere, diciamo così, un gruppo di persone che non rappresenta, diciamo così, nessuno se non se stesse. Soluzione? La soluzione in realtà starebbe in una politica più, diciamo così, consapevole di sé e meno ballerina, però... E non tanto intervenendo, e quindi io su questo non sarei d'accordo, non tanto intervenendo sul sistema dei social network, però questo rischia di amplificare i social network una tendenza che è: io dico la mia, la dico sulla rete, la dico tra me e me, la dico a chi non so, e alla fine poi io l'ho detta e magari questa cosa finisce per avere un peso, a volte artificialmente pesante. Ecco, sintetizzando, quindi si parla troppo e si ascolta poco. Sì, direi una cosa di questo tipo. Ti ringrazio, grazie Massimo. Noi ora diamo la linea al traffico. Se Arturo Di Corinto resta con noi, ci racconta nella seconda parte quelli che sono i veri, ma i veri pericoli della rete. Nova Lab 24. Bentornati, Arturo Di Corinto. Abbiamo visto i pericoli che sta correndo, i presunti pericoli che sta correndo internet da parte dei governi nazionali, che in qualche modo sono interessati a controllare la rete. Però mi sembra di capire che ci sono anche dei pericoli tecnologici. Esatto, il primo è il sovraccarico funzionale della rete internet. Per capirci, in Cina è un problema il grande numero di utenti della rete internet, che non si scambiano soltanto delle chiacchiere o dei file di testo, ma si scambiano video, musica, eccetera. Negli Stati Uniti il problema del sovraccarico è inverso, non c'è un altissimo tasso di penetrazione della rete perché sta arrivando a un plateau negli Stati Uniti, ma c'è un problema per il largo utilizzo di voice over IP e di internet television, cioè di IPTV. In altri paesi industrializzati c'è un problema di banda, cioè la banda disponibile in tanti paesi è poca, Wi-Fi e WiMAX stentano a decollare e soprattutto le centraline e i backbone che fanno viaggiare le informazioni sono saturi. La vecchia rete di rame comincia a cedere e anche gli AG che noi teniamo in casa per collegarci alla rete internet spesso sono difettosi e questo produce dei colli di bottiglia nella trasmissione dell'informazione. In questo senso la Finlandia allora è riuscita a cambiare, a dare una svolta con l'idea di introdurre poi un megabit garantito a tutti? Assolutamente sì, ma è un paese all'avanguardia quello. Purtroppo noi non siamo come la Finlandia. Ecco, però di grandi sabotaggi, a parte un taglio, se non ricordo male, dei cavi di telecomunicazione che è avvenuto nel 2008, che lì fu proprio un sabotaggio reale, cioè tagliarono i cavi e ci furono interruzioni sul traffico per un paio verso di mesi. L'India, il Medio Oriente, Afghanistan, Pakistan, eccetera. Cioè, non lo sappiamo, scusami, non ti volevo interrompere. No, no, nel senso che poi di fatto questa rete, sì, a parte i colli di bottiglia, non è mai crollata. No, però è accaduto più di una volta che, quante volte, facciamo un esempio, gli ascoltatori quante volte avranno sperimentato di aver mandato un'email che non è mai arrivata? Quante volte hanno sperimentato delle pagine bianche quando cercavano i loro siti web? Quante volte hanno ricevuto la risposta pagina non trovata? Allora, cioè, queste cose non succedono soltanto perché i siti, i server che gestiscono i siti funzionano male, ma semplicemente perché quelle informazioni vengono perse, non arrivano a destinazione. Questo dipende dal fatto fatto che i pacchetti trasmessi sulla rete non trovano la loro destinazione. Può succedere per molti modi, per molti motivi. Uno dei motivi è l'interruzione dei cavidotti sotterranei che collegano i vari paesi fra di loro, i continenti fra di loro in particolare. Allora, se questi cavidotti sono molto ben protetti fra l'Europa e gli Stati Uniti, non è così in altri casi. Ad esempio, nel Mediterraneo non è assolutamente così. Quindi un'interruzione di quei cavidotti può determinare l'esclusione di milioni di persone dal traffico internet, non per 2 ore o per 4 ore, ma per interi giorni. Io ricordo che nel 2004 addirittura il dominio geografico della Libia scomparì per 4 giorni da internet. Chiunque voleva cercare un sito libico non ci arrivava, semplicemente non c'era più. Allora, il problema è vero ed esiste e può dipendere anche dal fatto che delle organizzazioni criminali, terroristiche, eccetera, attentino all'infrastruttura di telecomunicazione. Poi ci sono le teorie cospirazioniste che dicono che sono stati gli Stati Uniti d'America che preparavano l'assalto all'Iran, certo, all'Iraq, eccetera. Però il problema c'è, è reale, tant'è vero che ogni anno viene effettuata una media di 50 riparazioni dei cavidotti che collegano l'Europa all'Atlantico e l'Atlantico al Pacifico e gli Stati Uniti e il, sì, Mar Pacifico è chiaro, paesi. Luca, e in questo senso ci conforta la notizia che in effetti alcune multinazionali sia europee che americane sono interessate a grandi investimenti in Africa proprio sulla rete, proprio sulle infrastrutture per migliorare poi le comunicazioni. L'anno scorso è stato per esempio poggiato sui fondali oceanici un cavo in Africa orientale che ha, diciamo, migliorato le comunicazioni per il Kenya e per il Sudafrica e per un tratto, ecco, del continente, anche se poi la grande notizia dell'Africa sono i cellulari e quindi poi l'accesso a internet da telefonino, che per quanto limitato, per quanto circoscritto a una nicchia, però di fatto da quello che sostengono molti analisti sta cambiando il rapporto con le comunicazioni ed ha un'influenza poi con il tema con cui abbiamo aperto questa trasmissione, e cioè con la democrazia. Ricordiamo il caso che è diventato famoso nel mondo, che è quello di Ushahidi, che è una mappa che è stata messa online durante le elezioni in Kenya e che ha permesso poi di raccontare delle storie delle province del Kenya dove tanto spesso degli inviati o dei giornalisti non sono arrivati, però attraverso questa mappa su internet, che è, immaginatela da casa appunto come una mappa con dei cerchietti e questi cerchietti sulle diverse località geografiche del Kenya vanno a indicare gli incidenti oppure diciamo i brogli elettorali, e questa mappa quindi è stata utilizzata per raccontare più a fondo quello che è successo in Kenya. Ecco, però tu lo dico Rinto, cioè tu vedi che questa debolezza, che è chiaramente infrastrutturale, al netto di quello che giustamente osservava Dello Jacopo, questa debolezza strutturale, cioè da proprio dal punto di vista della piattaforma di comunicazione, possa essere messa in crisi? Cioè non è una previsione, cioè è... Ci sono due correnti di pensiero questo proposito. Il Chief Protocol Architect di Internet fino al 1986 è stato un signore che si chiama David Dana Clark. Lui dice che se non aggiorniamo i protocolli di comunicazione di Internet e non ammoderniamo l'infrastruttura, prima o poi Internet collassa. Questa è l'opinione anche dell'esperto antiterrorismo di Bill Clinton, Richard Clark, che disse all'epoca che ci aspettiamo una Pearl Harbor digitale. Al contrario, Vinton Cerf, che è il padre del WWW, sì, il padre del WWW, ricordate, di Internet. Del TCP/IP, dell'Internet Protocol, Bob Kahn e Vinton Cerf. Vinton Cerf dice che invece un collasso della rete Internet non si è mai verificato e non si verificherà mai, perché comunque ingegneri, consorzi, gruppi di interesse lavorano a tappare le falle, ammodernare i protocolli e a migliorare la capacità trasmissiva della banda passante. Quindi sono due correnti di pensiero molto diverse fra di loro. C'è un dato di fatto però che la National Science Foundation, l'equivalente del nostro CNR, sta lavorando, sta finanziando copiosamente degli studi per innovare le reti di comunicazione telematica, per creare delle nuove internet. Una esiste già, lo ricordavi tu prima, lo ricordavamo insieme, esiste già una internet 2, perché il problema è vero e reale, anche perché quello che sembra, io ho sentito molte persone per una piccola inchiesta che ho fatto per il Sole 24 Ore, ho sentito molte persone che mi hanno raccontato che c'è un problema sui protocolli di comunicazione. I protocolli sono le regole sulla base delle quali i computer possono parlarsi fra di loro e scambiarsi informazioni. Questi protocolli, che sono datati, ogni tanto vengono aggiornati, ma manca una vera cultura dell'aggiornamento di questi protocolli, tant'è vero che i tecnici che gestiscono i protocolli sulla loro base, implementano nuovi servizi, spesso non li conoscono a fondo e li interpretano male, quindi c'è una debolezza originaria di questi protocolli che possono essere interpretati male e che spesso non funzionano o collassano quando gli si pongono nuovi servizi. Pensate al fatto che quando si aggiornano automaticamente tantissimi computer con un singolo aggiornamento, facciamo conto di Windows, si inceppano dei sistemi complessi. Questo perché ci sono milioni di utenti che nello stesso momento fanno la stessa operazione e le reti e i server non riescono a gestire la quantità di richieste che vengono inoltrate in uno stesso momento. Se a questo aggiungiamo il fatto che i denial of service, i distributed denial of service, gli attacchi dei pirati, gli attacchi delle organizzazioni criminali. Esatto, questi attacchi da negazione del servizio con cui si sommerge di richieste un server utilizzando una rete di macchine che sono poi computer zombie che vengono controllate da organizzazioni criminali, come dicevi tu, su commissione, vengono utilizzate per inviare spam o effettuare attacchi di varia natura, sono diventati delle tecniche di cyber warfare. L'Estonia l'ha sperimentato poco tempo addietro, nel 2007 mi pare. Noi abbiamo raccontato insieme a Rappetto questa esempio di guerra informatica reale, insomma. Esatto, ma questo accade, non è accaduto soltanto con l'Estonia, è accaduto tra israeliani e palestinesi, ad esempio, è accaduto nei confronti della Casa Bianca, quando gruppi di dissidenti, libertari, eccetera, protestavano contro la messa a morte di un personaggio della scena dei diritti civili americani, delle Pantere Nere. È accaduto tante volte, addirittura è accaduto a Twitter, un attacco di negazione di servizio è stata subita da Twitter nel 2008, quindi il problema ovviamente c'è. Ma questi sono i pericoli di carattere tecnologico. Voi giustamente avete messo l'accento sui pericoli di carattere culturale. Grazie Arturo. I minuti stanno finendo. Anticipiamo, Luca, quello che succederà domani a grandi linee. Domani scendiamo a vedere che cosa stanno facendo i blogger, cioè non parliamo soltanto di appunto internet, tecnologie e contenuti, ma andiamo a vedere anche le persone che ogni giorno poi cambiano diciamo quello che c'è in rete e dedicano del tempo alla libertà di espressione. Quindi Arturo, io ti ringrazio, se vuoi domani partecipare sei assolutamente il benvenuto, così possiamo anche chiudere il discorso. Quindi domani ancora parliamo di internet, ora spazio alle news. Più vicini al sangue artificiale. Scienziati statunitensi della University of California Santa Barbara e della University of Michigan hanno infatti annunciato di aver creato in laboratorio cellule che mimano le principali caratteristiche dei globuli rossi, producendo così un sostituto sintetico del sangue umano capace di trasportare ossigeno, farmaci e coloranti per realizzare analisi radiografiche. I ricercatori sono ottimisti. Un'altra buona notizia arriva da Londra. Scienziati del Royal Free Hospital hanno realizzato un'arteria artificiale grazie a nanotecnologie. Il materiale usato le consente di essere flessibile e imitare perfettamente le funzioni di quella originale. Attualmente i protocolli chirurgici prevedono l'impiego di arterie di plastica. Qualche idea in più. Il 2009 si chiude con una ripresa dei brevetti registrati in Italia, quasi 10.000, con un aumento di circa il 2% rispetto al 2008. Sembra poco, ma nei due anni precedenti si sono registrati cali rispettivamente del 7% e del 3%. Cambia qualcosa nella classifica dei browser. Secondo NetApplication, a dicembre Chrome avrebbe superato Safari, il software di navigazione dell'Apple. Nonostante il successo dell'iPhone, il programma di Google promette di scalare posizioni nei prossimi mesi. Anche e soprattutto per effetto dell'attesissimo debutto del Google Fonino.